nell'ANSA lì si sviluppò il nucleo più antico di Verona, ancora in epoca pre-romana e poi romana, e poi tutto intorno le mura di epoca comunale, scaligera e poi veneziana, e dei Visconti anche un po' che hanno fatto, e poi veneziana. Ecco, tre immagini di Verona. Abbiamo messo a sinistra il poeta Berto Barbarani, di cui io mi sono servita perché ho fatto alcuni paralleli fra quello che aveva scritto lui, alcune parti del 1912 in questo almanacco. Questa è una statua recente, l'hanno inaugurata proprio l'anno scorso. Quelli in alto a destra c'è questa coppa di epoca romana, è un monolite di porfido, ma questo è il luogo dove veniva custodito il famoso carroccio veronese, il carroccio della Lega contro l'imperatore Federico. Sotto questa, che si trova nel protiro della Basilica di San Zeno, mostra questi due cavalieri che stanno combattendo fra di loro e hanno individuato che fossero il re Odoacre e Teodorico nella battaglia che ha decretato appunto la sconfitta di Odoacre. E da questa battaglia è nata un po' una leggenda sul famoso, i veronesi la chiamano il pastissà de cavallo, cioè lo spezzatino di cavallo, insomma, in poche parole, un piatto tipico veronese, e loro fanno risalire l'origine di questo piatto a questa battaglia. Erano talmente tanti i cavalli morti dopo questa battaglia, che si contavano a centinaia, e il popolo, che non era belligerante ma era sempre in guerra con la fame, ha pensato bene di utilizzare questa carne, di tenerla, di salarla, di tenerla sotto cipolla per tanto tempo in modo da poterla conservare più a lungo, e da lì dicono che è derivato questo spezzatino, questa pastissada de cavallo. Qui siamo a Zevio. Zevio è una località al di sotto della provincia di Verona, aperta campagna ormai, anche Zevio uno dei porti della navigazione sul fiume, e questa si trova sopra il portale della chiesa di Zevio. È Santa Toscana, quella in alto, che era nativa appunto di lì, e dopo questo fatto, cioè, lei si attribuisce il miracolo che l'Adige, che dava l'impressione di rompere gli argini in ogni momento, invece col suo intervento le acque si sono fermate. Si vedono ben le donne con i bambini, con i loro fagotti che vanno via, gli uomini che tentano in qualche modo con le fascine, le vanghe, i badili, di porre qualche rimedio. E questa è Santa Toscana, che è venerata, cioè il culto è cresciuto enormemente dopo che le sia stato attribuito questo miracolo. Questo è il dio Adige, che io ho voluto mettere sulla copertina del libro, che è un ricamo su un piviale che è conservato al Duomo di Legnago, eseguito nella metà dell'Ottocento, e mi piaceva l'idea che il fiume fosse temuto e venerato nello stesso tempo come un dio, da essere raffigurato così in un piviale, in un paramento sacro. Questa l'abbiamo inserita perché si vedono i mulini, i pennelli, cioè quelle fortificazioni piuttosto rudimentali per far fronte alle acque, e i mulini che lavoravano sul fiume e che poi venivano tirati con una fune a terra quando passavano le imbarcazioni, perché c'erano delle precise disposizioni da parte degli scaligeri, sono state le prime per la navigazione, in quanto dovevano dare tre segnali acustici in modo da avvisare i mugnai di tirare a riva i loro mulini perché non fossero travolti dalle imbarcazioni. Qui siamo a Castagnaro, il mio paese di origine, e questa è uno sbarramento, Rosta viene chiamata, e da qui, ecco, per inciso, questo è un manufatto che ha fatto soffrire Venezia per ben 4 secoli, dal 1438 fino alla sua chiusura del 1838. Fino a quell'epoca il fiume non aveva più il suo corso come è oggi, ma passava qui sotto, come si vede, e andava a unirsi al Po attraverso il Tartaro, il Canal Bianco, un manufatto che ha dato parecchio filo da torcere a Venezia. L'abbazia di Badia Polesine purtroppo è rimasto molto poco, un'abbazia degli Estensi. Si sa che gli Estensi furono una delle famiglie più potenti medievali che attraverso matrimoni sapientemente combinati si erano imparentati con tutta Europa. Queste due arche che sono qui davanti sono di Azzo II e la moglie, che sono sepolti qui. L'abbazia, insieme alla navigazione sul fiume, aveva fatto di Badia Polesine fino a qualche secolo fa, 2 secoli fa, aveva fatto un luogo molto florido e molto importante. Adesso è rimasto proprio poco. Ecco, prima ho parlato della navigazione che veniva fatta in salita con gli animali, con i burchi trainati degli animali. Qui siamo a Boara Pisani e questa adesso è stata molto bella, restaurata, sono abitazioni private, ma un tempo, fino al secolo scorso, era il luogo di sosta e di cambio degli animali. Sotto c'erano le stalle, i magazzini dove si ponevano le merci, si cambiavano gli animali, sopra riposavano gli uomini per ripartire il giorno successivo, perché navigare sull'Adige, cioè anche con questi animali, buoi o cavalli, non era certo facile. Non so se avete visto a Bronzolo, c'è una sagoma, proprio sul porto di Vadena, a Bronzolo c'è una sagoma di cavallo in atto di trainare con le fune l'imbarcazione, le fune di varia misura, perché naturalmente quello più avanti, in modo da non creare difficoltà agli animali. Qui siamo proprio nella pianura, nella provincia di Rovigo, e queste sono delle barchesse, le chiamiamo noi, cioè queste case coloniche che una volta erano di proprietà dell'Arca del Santo. Adesso l'Arca del Santo non ha più, la veneranda Arca del Santo non ha più alcuna proprietà qui, pare abbia venduto tutto, e queste sono abitazioni private. Però guardate i granai, questi travi che per averli portati via fiume fin qua dalla montagna non deve essere stata un'impresa molto, molto facile. Ecco, non so se voi avete sentito parlare ancora della veneranda Arca del Santo. Due parole, per noi veneti, il santo è Sant'Antonio, ormai lo chiamiamo il santo e basta, no? La veneranda Arca del Santo è una istituzione che ha avuto luogo nel lontano 1300 e all'inizio del 1386, mi pare, perché Francesco il Vecchio da Carrara e poi suo figlio Francesco Novello avevano, per le continue guerre che facevano contro Venezia, per scaligere prima e contro Venezia, soprattutto dopo, avevano depauperato tutto il popolo padovano e non solo, ma anche la Basilica del Santo. Avevano portato via tutte le suppellettile, tutti gli argenti che avevano, perché avevano bisogno di denaro per far fronte a queste guerre, per pagare gli armamenti, i soldati, eccetera. E Francesco il Vecchio aveva promesso che poi avrebbe restituito, proprio per non lasciare una cattiva fama di sé. E l'impegno è stato mantenuto dal figlio, che poco prima di essere strangolato a Venezia ha restituito tutti i beni, e allora è stata creata proprio legalmente questa Arca del Santo, che per proteggere tutti i beni della Basilica del Santo, che c'è tuttora. Ecco, uno dei tanti raddrizzamenti del fiume Adige, soprattutto nella pianura, di diversi chilometri il fiume si è accorciato col taglio di queste anse, perché qui ormai il fiume è pensile, cioè tutti i materiali più pesanti si sono depositati prima, tutte le sabbie leggere sono state portate e quindi dopo Legnago, diciamo, il fiume scorre proprio sopra le nostre teste ed è pensile. Questa è un forte di epoca veneziana, poi sfruttato in epoca francese e poi austriaca. Era l'ultimo avamposto dell'ultima roccaforte, diciamo, veneziana e poi austriaca, contro i possedimenti che c'erano al di là dell'Adige, quindi del Po, dei Gonzaga e degli Estensi soprattutto. Ecco gli orti. Questi sono i terreni che ha creato l'Adige con le sabbie che ha depositato. Terre fertilissime, perché qui gli orti, le verdure, il radicchio e quant'altro, e tutto quello che viene prodotto, fornisce i mercati di tutta la pianura. Vedete come siamo passati appunto dalle nevi agli orti, e qui siamo ormai nelle vicinanze di Chioggia. Ecco, questa è la foce. La foce, ci sono tanti isolotti, appena più a sud c'è la foce del Po, più a nord c'è la foce del Brenta, e quindi ormai tutti i fiumi arrivano qui. È il luogo ideale per i pescatori, e difatti è sempre pieno, perché possono trovare molto pesce ovviamente con l'acqua del mare che entra nel fiume e quindi dà la possibilità.